Il terzo anello, ad alta voce, I mandarini, di Simone de Beauvoir. Traduzione di Franco Lucentini. L'articolo di Henri sul Madagascar uscì il 10 agosto. L'aveva scritto con passione. Esecuzione illegale del teste principale, attentati contro gli avvocati, torture inflitte agli imputati per strappargli false confessioni. La verità era ancora più mostruosa di quel che avesse immaginato. E non era soltanto a Tananarive che accadevano queste cose. Era qui, in Francia, e tutto il paese ne era complice. Complici le camere che avevano votato l'annullamento dell'immunità, complici il governo, la Corte di Cassazione e il Presidente della Repubblica, complici i giornali che tacevano e i milioni di cittadini che accettavano questo silenzio. Adesso almeno qualche migliaio di persone saprà, si disse quando ebbe tra le mani il numero di vigilance, e pensò con rincrescimento. Qualche migliaio non è molto. Aveva studiato quest'affare con tanta cura, così da vicino, da parergli ormai che lo riguardasse personalmente. Stava lavorando distrattamente una mattina quando suonarono al cancello. Traversò il giardino per andare ad aprire. Era Lachaume. «Tu?» «Sì, vorrei parlarti», disse Lachaume con voce tranquilla. «Non hai l'aria contenta di vedermi», aggiunse. «Ma vorrai almeno lasciarmi entrare, no? Quel che ho da dirti ti interesserà». Lachaume era invecchiato in questi 18 mesi e aveva gli occhi cerchiati. «Di che cosa vuoi parlarmi?» «Dell'affare del Madagascar». Henri aprì la porta. «Ma cos'hai da spartire con uno sporco fascista?» «Oh, lascia perdere», disse Lachaume. «Sai cos'è la politica? Quando scrissi quell'articolo bisognava che ti mettessi a terra, e ormai è storia vecchia». «Io ho una buona memoria», disse Henri. Lachaume lo guardò con aria addolorata. «Serbami rancore se ci tieni. Sebbene, davvero, dovresti capire», disse con un sospiro. «Ma per il momento non si tratta né di te né di me. Ci sono vite umane da salvare». «Potrai starmi a sentire 5 minuti?» «Ti sto a sentire», disse Henri indicandogli una delle poltrone di Vimini. «Di che si tratta?» «In due parole, ecco qua. Stiamo organizzando un comitato di difesa dei malgasci. Sarebbe stato meglio che l'iniziativa partisse da qualcun altro, ma gli idealisti piccolo borghesi non hanno sempre la coscienza delicata. Al bisogno sono capaci di incassare tutto senza fiatare. Il fatto è che nessuno ha alzato un dito». «Beh, fin qui non avete fatto molto neppure voi», disse Henri. «Non potevamo», disse vivamente Lachaume. «E così abbiamo pensato a un comitato in cui entrerebbero 2 o 3 comunisti e una maggioranza di non comunisti. Quando ho letto il tuo articolo mi sono detto che nessuno sarebbe più qualificato di te per presiederlo». Lachaume interrogò Henri con lo sguardo. «I compagni non sono contrari. Soltanto, prima di farti una proposta ufficiale, la Forie vuole essere sicuro che accetterai». Henri restò in silenzio. Fascista, venduto, maiale, poliziotto. L'avevano accusato di tutti i tradimenti. E adesso tornavano con la mano tesa. Questo gli dette un piccolo sentimento di trionfo, molto piacevole. «Chi ci sarà precisamente in questo comitato?» «Tutte le persone un po' importanti che vorranno arrischiarcisi», disse Lachaume. Henri esitò. «Perché non chiedete piuttosto a Dubreuil? Il suo nome ha maggior peso del mio e dirà sicuramente di sì». «Sarà bene avere anche Dubreuil», disse Lachaume, «ma è il tuo nome che bisogna mettere avanti. Dubreuil è troppo vicino a noi. Non bisogna soprattutto che questo comitato paia di ispirazione comunista, o allora sarebbe peggio che niente. Con te non ci saranno equivoci». «Vedo», disse Henri seccamente. «È nella misura in cui sono un social traditore che posso esservi utile». «Esserci utile», disse Lachaume con voce irritata. «E agli accusati che potrei essere utile. Che cosa credi? Che abbiamo da guadagnare qualcosa in questa storia? Tu non ti rendi conto?» Riprese guardando Henri con rimprovero. «Tutti i giorni riceviamo dal Madagascar lettere e telegrammi strazianti. Parlate, informate l'opinione pubblica, fate sapere in Francia quel che succede qui. E noi abbiamo le mani legate. Cos'altro possiamo tentare se non questa specie di carambola?» Henri sorrise. La veemenza di Lachaume lo toccava. «Senti», disse, «non penso che abbiamo molta possibilità di riuscire. Comunque, proveremo». Il viso di Lachaume si rischiarò. «Posso dire alla Forie che accetterai?» «Sì, ma spiegami un po' come pensate di organizzare la cosa». «Beh, ne discuteremo insieme», disse Lachaume. «Ecco», si disse Henri, «siamo da capo. Ogni cosa un po' onesta che facciamo ci tira addosso nuovi doveri». I suoi editoriali del 47 l'avevano portato a scrivere l'articolo per Vigilance e questo lo portava a organizzare questo comitato. Era preso di nuovo, ma non per molto tempo, si disse. Lo studio aveva un'aria di festa. Anna era rientrata il giorno prima e Nadine aveva colto tutti i fiori del giardino per riempirne la casa. Ma nessuno era molto allegro. Anna era invecchiata parecchio e beveva troppo whisky. Dubreuil, che negli ultimi tempi era stato così bene, pareva preoccupato, forse per via di Anne. Nadine era più o meno scontrosa e s'era rimessa ai lavori a maglia. Il racconto di Henri aveva finito d'attristare la serata. «Così è finita», disse Anne. «Non c'è più nessuna speranza di salvare quella gente». «Non ne vedo nessuna», disse Henri. «Era chiaro che la camera se ne sarebbe lavata le mani», disse Dubreuil. Anne guardò Dubreuil. «Non trovate che è scoraggiante?» «Ma no, tutto questo prova solo che l'azione non si improvvisa. Siamo partiti da zero, allora, per forza...» Dubreuil era entrato nel comitato, ma non se n'era occupato granché. Quel che l'aveva interessato in questa storia era stata l'occasione di riprendere i contatti politici. S'era iscritto al movimento dei combattenti della libertà, aveva partecipato a uno dei loro comizi e tra qualche giorno ne avrebbe presieduto un altro. Non insisteva perché Henri lo seguisse e non gli riparlava neppure del settimanale. Ma di tanto in tanto si lasciava sfuggire un rimprovero più o meno mascherato. «Improvvisata o no, non c'è azione che possa dare un risultato qualsiasi oggi», disse Henri. «Siete voi a dirlo», disse Dubreuil. «Comunque, mettetevi in testa che per avere delle possibilità di riuscire un po' meglio il nostro colpo, quando un'occasione si ripresenterà, dovremo prepararlo da prima». «Per me l'occasione non si ripresenterà», disse Henri. «Ma andiamo», disse Dubreuil. «Mi fate ridere quando dite che la politica per voi è finita. Siete come me, ne avete fatta troppa per non farne più». Gli occhi di Dubreuil si accesero. «Faccio una scommessa. Non resterete un anno in Italia». «Accetto la scommessa», disse Henri. «Ma c'è una cosa che non capisco. Dicevate l'anno scorso di non poter incassare personalmente quel che chiamavate il nuovo umanesimo, ed ecco che vi impegnate a fondo con i comunisti. Quel che vi dava fastidio allora adesso non vi dà più fastidio?» «Sapete», disse Dubreuil, «quest'umanesimo non è altro che l'espressione del mondo d'oggi. Non si può rifiutare l'uno senza rifiutare l'altro. Tutto quel che si può fare è distorcere la bocca. Ma a che serve?» «Ecco cosa pensa di me», si disse Henri. «Sono uno che storce la bocca». Sorrise. «Perché avete smesso di storcere la bocca?» «È molto semplice. L'anno scorso mi dicevo che tutto era male e che il minor male era ancora troppo duro da accettare per poterlo considerare come un bene. Ma poi la situazione si è aggravata ancora di più. Il male peggiore è diventato così minaccioso che le mie reticenze nei riguardi dell'Unione Sovietica e del comunismo mi sono apparse molto secondarie». Interrogò Henri con lo sguardo. «Siete ben convinto che tra l'Unione Sovietica e l'America bisogna scegliere l'Unione Sovietica?» «Evidentemente». «Ebbene, questo basta. C'è una cosa di cui bisognerebbe convincersi», disse con foga, «ed è che non c'è altra adesione che la scelta, altro amore che la preferenza. Se aspettiamo per impegnarci di incontrare la perfezione assoluta, non ameremmo mai nessuno e non faremo mai niente. Senza reclamare la perfezione, si può tuttavia trovare che le cose vanno in modo piuttosto ripugnante e non aver voglia di immischiarsene», disse Henri. «Evidentemente, in confronto con l'idea, la realtà ha sempre torto. Incarnandosi, l'idea si deforma. Ma la superiorità dell'Unione Sovietica su tutti i socialismi possibili è questa, che l'Unione Sovietica esiste». Henri guardò Dubreuil con aria interrogativa. «Se quel che esiste ha sempre ragione, non ci resta che incrociare le braccia». «Niente affatto. La realtà non è fissa a un avvenire, a possibilità diverse. Se fossimo modesti capiremmo che da una parte c'è la realtà e dall'altra niente. Non conosco errore peggiore che il preferire il vuoto al pieno». «Comunque, la vostra maniera di vedere le cose mi sembra piuttosto pessimista». «Anche qui», disse Dubreuil, «il pessimismo non esiste che rispetto alle idee che mi facevo una volta. Idee troppo sorridenti. La storia non è affatto sorridente. Ma siccome non c'è mezzo di sfuggirle, bisogna cercare il miglior modo di viverla. A mio avviso, l'astensione non è il modo migliore». Thank you. Cadeva la sera. Henri ruminava all'ombra del tiglio quando Anne comparve sulla porta di casa. «Henri!» Lo chiamava con voce calma, ma pressante, e Henri s'avviò verso casa. «Sì?» Dubreuil era seduto accanto al camino e Nadine in piedi accanto a lui con le mani affondate nelle tasche e un'aria ostinata. «Césénac è qui», disse Anne. «Dice che vogliono ammazzarlo. Si nasconde da 5 giorni, ma non ce la fa più. 5 giorni senza droga. È agli estremi». Anne indicò la porta del soggiorno. «È là, steso sul divano, malato come un cane. Vado a fargli un'iniezione». «Gliela farai quando avrà parlato», disse Nadine con voce dura. «Ha parlato?» chiese Henri. «Parlerà», disse Nadine. Anne andò rapidamente alla porta e l'aprì. Chiamò con voce quasi amabile. «Césénac?» Henri restò immobile sulla porta con Anne mentre Nadine s'accostava al divano. Césénac non si mosse. Giaceva supino, gemeva, apriva e chiudeva le mani spasmodicamente. «Presto», disse. «Presto». «L'avrai la tua iniezione», disse Nadine indicando la siringa che aveva appena preparato. «Guarda». Césénac voltò la testa. Il sudore gli scorreva sul viso. «Ma prima devi rispondermi. In che anno cominciasti a lavorare per la Gestapo?» «Sto per morire», disse Césénac tremando convulso e tirando calci nel vuoto. Era uno spettacolo difficile da sopportare e Henri avrebbe voluto che Anne lo facesse finire subito. Ma Anne sembrava paralizzata. Nadine s'avvicinò di più. «Rispondi e ti faremo l'iniezione», disse. Si chinò su Césénac. «Rispondi o t'andrà male. In che anno?» «Mai», rispose in un soffio. Tirò ancora un calcio e ricadde inerte con un po' di schiuma bianca agli angoli delle labbra. Henri fece un passo verso Nadine. «Lascialo!» «Deve parlare», disse Nadine con violenza. «Parlerà o creperà?» «Mi senti?» riprese voltandosi a Césénac. «Se non parli, ti lasciamo crepare!» Anne e Dubreuil restavano inchiodati al loro posto. Effettivamente, se si voleva sapere la verità su Césénac, era quello il momento. Nadine prese Césénac per i capelli. «Sappiamo che hai denunciato ebrei, una quantità di ebrei. Quando hai cominciato?» Gli scuoteva la testa e Césénac gemé. «Mi fai male!» «Rispondi! Quanti ebrei hai denunciato?» «Li aiutavo», rispose tra i gemiti. «Li aiutavo a passare». Nadine lo lasciò. «Non li aiutavi, li denunciavi! Quanti ne hai denunciati?» Césénac si mise a singhiozzare contro il cuscino. «Li denunciavi! Confessa!» disse Nadine. «Uno, di tanto in tanto per salvare gli altri. Era necessario», disse Césénac. Si sollevò. «Siete ingiusti. Ne ho salvati. Ne ho salvati molti». «È il contrario», disse Nadine. «Ne salvavi 1 su 20 perché ti mandasse clienti e denunciavi gli altri. Quanti ne hai denunciati?» «Non lo so», disse Césénac. Gridò improvvisamente. «Non lasciatemi crepare!» «Oh, basta così», disse Anne avvicinandosi al divano. Si chinò su Césénac e gli rimboccò la manica. Nadine tornò da Henri. «Sei convinto?» «Sì», disse. «Eppure non riesco ancora a crederci». Tornarono a sedersi nello studio e Henri chiese: «Cosa facciamo?» Ci fu un silenzio. 4 anni prima tutto sarebbe stato semplice. Quando l'azione è una realtà viva, quando si crede ai propri scopi, la parola giustizia ha un senso. Un traditore incallito da cui non si spera più niente, s'ammazza. «Teniamolo qui 2 o 3 giorni, il tempo di rimetterlo in piedi», disse Anne. «È davvero molto malato. Poi lo spediremo in qualche colonia lontana. Non tornerà mai. Avrebbe troppa paura di farsi ammazzare». Nadine gridò. «Non se la caverà così. Voglio che Césénac paghi. Vi rendete conto di quello che ha fatto, no?» «Ce ne rendiamo conto», disse Anne. «Ma a che ti servirebbe farlo pagare? Non si risuscitano i morti». «Parli come Lambert. I morti non si risuscitano, ma non è una ragione per dimenticarli». «Ma li abbiamo dimenticati», disse Anne con voce brusca. «Non è forse colpa nostra, ma li abbiamo dimenticati. E il risultato è che non abbiamo più alcun diritto sul passato». «Io», disse Nadine, «non ho dimenticato niente». «Tu hai la tua vita, hai una bambina, hai dimenticato come gli altri. Se ci tieni tanto a far pagare Césénac è per provarti il contrario, ma è malafede». «Rifiutare d'entrare nei vostri giochetti adesso è malafede», disse Nadine avviandosi alla porta. «Ebbene, i vostri scrupoli io li chiamo vigliaccheria», gridò con violenza, sbattendo la porta dietro di sé. «La capisco», disse Anne. «Quando penso a Diego, La capisco. S'alzò. Preparerò un letto nel padiglione per Sesenac. Dorme. Non avrete che da portarcelo. Uscì bruscamente e Henri ebbe l'impressione che stesse per piangere. Una volta sarei stato capace d'ammazzarlo io stesso, disse Henri. Oggi non avrebbe senso. Eppure aiutare un tipo simile a vivere è scandaloso. Attraverso un sonno confuso, Henri credette d'un tratto di sentire un rumore insolito, un rumore di grandine. Aprì gli occhi. Una striscia di luce passava sotto la porta. Nadine era rientrata, ma il rumore non veniva dalla sua camera. Ci fu una pioggia di ghiaia minuta contro i vetri. Sesenac, pensò Henri saltando dal letto. Aprì la finestra e si sporse. Vincent. Si vestì in fretta e scese in giardino. Cosa fai qui? Vincent era seduto su una panca del giardino. Il suo viso era calmo, ma il suo piede sinistro batteva la terra con un movimento convulso. «Ho bisogno di te. Hai l'automobile?» «Sì, perché?» «Ho fatto fuori Sesenac. Bisogna portarlo via di qui.» Henri lo guardò con stupore. «L'hai ammazzato?» «È stato semplice», disse Vincent. «Dormiva. Ho usato il silenziatore. Nessuno ha sentito niente. Parlava con voce netta e rapida. Comincia a farsi tardi. Dobbiamo portarlo via con l'automobile. Faremo bene a sbrigarci. Cosa vuoi fare? Lo portiamo a fare un bagno, un piccolo bagno d'eternità. Conosco il posto adatto. Henri non si mosse. Gli pareva che gli chiedessero di uccidere Sesenac con le sue proprie mani. T'aiuterò, disse Henri, ma ti chiedo una cosa in cambio. Promettimi di lasciare quella banda. Quello di stanotte è stato un lavoro personale, disse Vincent. E quanto alla banda ti ripeto quel che t'ho già detto una volta. Tu non avresti niente di meglio da offrirmi. Cosa fate voi contro tutti questi porci che stanno rientrando in circolazione? Niente. Allora lascia che ci difendiamo. Non è una maniera di difendersi. Ma non ne hai una migliore da propormi, disse Vincent. Aggiunse, vieni o non vieni, ma deciditi. Va bene, disse Henri. Non era il momento di discutere. Seguì Vincent nel padiglione e allora fu il mondo quotidiano a crollare. L'odore era irrefutabile, denso, trionfante. Era l'odore che riempie le cucine quando si fanno bruciare le zampe piumate d'un pollo. Henri guardò il letto e trattenne un'esclamazione. Un negro. L'uomo coricato sul lenzuolo bianco aveva il viso completamente nero. «È il fosforo», disse Vincent. Tolse il lenzuolo. «Guarda». Il corpo dalle costole sporgenti aveva il colore del pane bruciato e il fosforo aveva scavato nel ventre una buca profonda. Non c'era alcun rapporto tra Césénac e quell'essere nerastro. Trasportarono il cadavere fino al garage. «Aspetta, vado a prendere i miei aggeggi», disse Vincent. Aveva nascosto la bicicletta dietro un cespuglio. Tornò con una corda e un sacco appesantito da una pietra. «Farò in un altro modo», disse, «visto che nel sacco così non ci può entrare». Legò solidamente contro il ventre di Césénac la pietra avviluppata nel sacco. Assicurò il tutto con un nodo scorsoio. «Così è sicuro che andrà a fondo». La strada era deserta. Il fiume, deserto. In un secondo gettarono dal parapetto la cosa che era stata Césénac. Ci fu un rumore d'acqua, un piccolo vortice, qualche cerchio, e di nuovo un fiume ingenuo, la strada deserta, il cielo, il silenzio. «Ecco, è sparito lì dentro, e non saprò mai chi era», pensò Henri. «Ti ringrazio», disse Vincent quando furono risaliti in macchina. «Tieniti i tuoi ringraziamenti», disse Henri. Quando arrivarono davanti al giardino, Henri disse: «Se ci saranno delle storie, potrai sempre contare su di me. Per il momento fila e non fa rumore». Filo. Henri riportò la macchina in garage. Quando riuscì, Vincent era sparito. Si poteva supporre, in verità, che Césénac se ne fosse andato da sé, che Vincent non avesse mai messo piede a Saint-Martin, che niente fosse accaduto. Ma qualcosa era accaduto. Nel grigio dell'alba erano seduti tutti e tre in sala da pranzo. Anne Dubreuil in vestaglia, Nadine completamente vestita. Nadine piangeva. Alzò la testa e disse con voce atona: «Di dove vieni?» Henri le sedette accanto e la cinse col braccio. «Perché piangi?» «È colpa mia», gemette Nadine. «Che cosa è colpa tua?» «Sono stata io a telefonare a Vincent». «Cos'è successo?» chiese con voce atterrita. «Césénac è in fondo al fiume con una grossa pietra al collo», disse Henri. «Non lo ritroveranno tanto presto». «Oddio mio, è una cosa così orribile!» Pianse per un pezzo mentre gli altri tacevano. Alla fine rialzò la testa. «Cosa succederà adesso?» «Non succederà niente. E se qualcuno del villaggio v'avesse visto andare e venire, te, Vincent?» «Non agitarti. Se succedesse il peggio, mi difenderò. Sei complice di un assassino?» «Sono sicuro che con un buon avvocato sarei assolto», disse Henri. «No, non è sicuro», disse Nadine. Continuava a piangere. Il suo rimorso era così cocente che Henri ne fu costernato. «Ti metteranno in prigione per anni», disse piangendo. «Ma no», disse Henri. La prese per un braccio. «Vieni a riposarti. Sei stata sveglia tutta la notte. Non potrò dormire. Proverai. Proverò anch'io». Thank you.